lineari, sai, perché sennò rischierebbero grosso. Diciamo, è carina un'applicazione, non è radio naturalmente. Eia, cosa ti volevo dire? Prima hai nominato un film che io ogni volta che, lo riguardo, quello Brutti, Sporchi e Cattivi, no, vabbè, con Nino Manfredi. Guarda, la prima volta che l'ho visto da ragazzino, da bambino anzi addirittura, mi aveva colpito molto, anzi a dirla tutta, beh, da bambino non capisce, no? Credevo che i meridionali, ma non come noi in Sardegna, quelli più meridionali fossero tutti così. Ma tu l'avevi visto la scena quando il tipo che si fa la sorella, che poi lo voleva ammazzare, lui aveva l'occhio strano, cioè di retto, dai, tutto messo male, quei bambini giocando nel mondestaio con le reti di recinzione, poi quando sono andati in quella casa che quelli vivevano con le galline, erano tutti a testa bassa, te lo ricordi quel pezzo? Sì, tutto me lo ricordo. Mi ricordo chi, il parco giochi fatto con le reti di letto, proprio un degrado, vabbè, quella era gente povera, sfollati. Poi vabbè, da bambino certe cose non le capisce, quindi credo che il sud, molto sud, fosse un po' così, invece poi non c'entra niente. Lì mi pare peraltro è girato in periferia di Roma, giusto? No. Non credo proprio io penso che sia più giù con la storia lì, addirittura o è Campania o zona Sicilia. No, ti dirò che, aspetta, poi controllo. Vabbè, comunque sì, è abbastanza crudo, cioè, insomma, bello comunque, io quasi sempre me lo riguardo, quando lo danno cerco di guardarmelo. Poi alla fine finisce che quella manco adolescente è già incinta, c'è una tristezza quella musichetta finale, cioè miseria su miseria, mi. Poi quelli che erano arrivati dal sud con tutta la roba, visto che si sono azzuffati, alla fine, cioè, di un nucleo familiare nutrito che c'era, ce ne sono finiti due lì dentro, dormendo tutti attaccati uno agli altri, ma manco le sardine così. Mamma mia che roba, eppure era una realtà in certi posti, una realtà. Guarda che io quando abitavo in Viale Mameli, lì c'era la clinica Sant'Anna, ex clinica Sant'Anna, no? E erano venuti degli sfollati, non so l'origine, di che origine fossero, se sardi o di dove. Fatto sta che ogni notte una rissa, ogni notte il 113, ma era tipo roba, tipo quel film lì. Uno addirittura ce lo siamo trovati in classe alle elementari, aveva minacciato il compagno di classe col coltello, dicendogli all'uscita, e gli ha fatto il gesto di tagliargli la gola, capito? Alle elementari. Mamma di turchi, poi sempre attaccabrighe, i bambini anche coetanei che abitavano lì, nella clinica occupata, è delicata la situazione. Poi di Ponte Bianco sono spariti e abbiamo tirato un sospiro di sollievo. Non so, tu sai perché, non ti ricordi tu, Montelepre, le minimissime su Via Grazia Deledda, Corea, adesso hanno eliminato tutto, Corea, diciamo, è rimasta le due famiglie, basta, le conosco pure, una c'è un'amica mia, brava persona, però c'era un periodo, cazzo, ma di lì era una cosa molto molto triste. Eia. Poi vabbè, da bambino io poi mi c'avevo il televisore in camera, quindi mi guardavo quello che volevo alla fine, casomai arrivava mamma, c'avevo la prolunga, tac, staccavo automaticamente. E mi ricordo anche in quel film la promiscuità, quello che trombava, cioè praticamente sì, quello con la sorella, con la cognata, adesso non mi ricordo, poi quando il padre, no, Manfredi si è portato quella buzzicona lì a casa, i figli un po' qua, un po' là, ne approfittavano tutti, una cosa allucinante. Mi aveva colpito, divertito, ma anche un po' angosciato quel film lì. Sì, no, è un film che domani lo guarda il ragazzino, ti mette a sorridere, ma cacchio, quelle sono cose vere. A me chi mi ha fatto un po' di sensazione, ce l'ho sempre memorizzata, quel parco giochi in mezzo alla mondezza, con le reti di letto chiusi, i bambini con la ragazzina, c'aveva avuto 14 anni, con un bambino che lo stava allattando, gli altri che li teneva bambini di 2-3 anni che giocavano in mezzo alla mondezza, chiusi in una recinzione tipo in un coso, un canile, una cosa del genere, quello mi ha fatto un po' di coso. E poi mi ha detto tu, quello che si è fatto la sorella, che stava lavando i piatti, si è avvicinato da dietro il fratello e gliel'ha appoggiata dietro. Poi lui, hanno cercato in tutti i modi di ammazzarlo, però non ci sono riusciti, volevano avvelenare, cioè, per prendergli i soldi. Quando spara a schiena al figlio, e poi sarà stato a pallini, no? Se no l'avrebbe sciabedato. E non si ricordava che l'aveva messo i soldi, mi pare, sotto il cesso, quella latrina esterna che avevano loro. Cioè, poi quando si era fatto male al braccio e se l'è fatto ingessare sotto il gesso, no? Allucinante, guarda, allucinante. Però filmone, cioè filmone veramente. Che dire, vabbè. Guarda, io Nino Manfredi, tolto Alberto Sordi, lo metto al secondo posto come attore italiano. Secondo me è l'attore più completo italiano insieme ad Alberto Sordi. Alberto Sordi è numero uno, lui è numero due. Diciamo, hanno fatto diversi tipi di film, perché Alberto Sordi soprattutto è conosciuto per la comicità, le macchiette, dai, non ce n'è, per me è numero uno, più di Totò. Totò, tanto di cappello, bravo, però Totò era un po' più limitato per certe cose, più comico, però più limitato per altre parti. Alberto Sordi ti faceva tutto. Io mi ricordo quando faceva quel cazzo del medico della mutua, o lo zoppetto, il dentone, te ricordi il dentone? Il dentone? Cazzo, non l'hai visto il dentone? Il film è più allucinante di tutti. Ma dove Alberto Sordi faceva un presentatore TV che aveva dei dentoni enormi, che sorrideva, ci voleva questo, non 32 denti, 36 denti, catizzò. Ehi, è quello lì che poi alla fine l'hanno assunto. Hanno fatto di tutto, lui era un genio della cultura generale, ne sapeva troppo. Hanno fatto il concorso alla Rai, ha passato a tutti, è arrivato alla finale e c'era uno bravo abbastanza, diciamo, di tutti quanti, era competitivo, una bella presenza, una bella voce. Hanno fatto tutte le registrazioni e poi l'ha dato per. Poi arrivava al dentone, dentone era il più forte in assoluto, ne sapeva più di tutti, e dovevano dire questo dobbiamo far fuori, perché non aveva detto ma è troppo bravo, in tutti i modi c'era quello, come si chiama quello che faceva le candy camera, e Cagliarittano, come si chiama, aiuta. Nanniloi. C'era Nanniloi dalla commissione insieme ad altri attori famosi, hanno fatto di tutto e di più per farlo sbagliare. Alla fine gli hanno detto dove passava il fiume, questo fiume dello Stato di Israele, e lui ha detto domanda tra bocchetto, e dice questo fiume non esiste più. Come non esiste più? Perché hanno controllato la cartina, tutto quanto, hanno chiamato l'istituto geografico militare, alla fine ha detto no, perché lo Stato di Israele aveva spostato il confine, non passava, che ne sapeva più di quelli, hanno chiamato addirittura il console israeliano, alla fine sì c'ha ragione, alla fine hanno avuto a prendere per, gli hanno fatto fare quelle K sotto, tutte quelle parole rompicoso per farlo sbagliare. È stato un'ora e mezza, alla fine sono finiti le bobine del registratore, hanno detto basta, non ce ne abbiamo più, c'è stato due ore e mezzo dicendo sotto la K 33 trentini, alla fine l'hanno preso e l'hanno mandato in televisione con quei denti, mamma mia. No, stavamo raccontando dei film, il dentone di Alberto Sordi, l'avevi visto tu? Sono qua, sono incazzato vero! No, negativo, aspetta che c'è uno incazzato vero avanti. Sono qua. Aspetta che c'è l'amico Eugenio, Eugenio avanti tu. Vabbè, aspetta, avete parlato assieme, vai Eugenio. E io ho detto, mi sono incazzato nero. Ma tu lo apposta, la vita sopra il coatto, e di manovre non capisco nulla, e dice, ma dove vuoi andare qui, dove vuoi andare? Ma guarda, veramente, che gente cretina, che ti fanno incazzare una serata così tranquilla, ti fanno incazzare sempre all'ultimo. Vado? Oh, qua sta arrivando cielo nero, vabbè. No, ma non credo che piova, ho visto le previsioni, ma non credo. Cosa hai detto Eugenio? Non ho capito, l'articolato, l'ho sentito attrasso. Radio troppo bassa, lo capisco bene quello che dice. Celiale è quasi 9, ma ci occorre me altro, la radio è bassissima. Sì, praticamente ha detto che questo autoarticolato ci ha messo un'ora e mezza per entrare dentro la Tirrenia a far manovra, capito? E la sostanza è quella, Robè. Comunque confermo, è Roma. Allora, il film è ambientato alle periferie di Roma, nonché girato, proprio girato, dice quasi completamente a Roma, nella zona di Monte Ciocci, sì. Poi vabbè, lui era Pasquale Mazzatello, come si chiama, era di Pugliese nel film, c'era un po' di nord, centro e sud Italia lì, diciamo, come abitanti lì nel film. Poi quelli che sono arrivati dopo, lo stesso, non so di dove fossero, manco i dialetti capivo, io non capivo di che zona d'Italia erano. Infatti di Roma ci credo, però come tipologia di persone stavano imitando secondo me il sud, dopo la campagna, la parte bassa, Calabria, Puglia, quelle zone lì, Basilicata. Sei arrivato a casa oggi? Ma è smesso, finito? Ma il segnale è forte oggi, però la radio sei bassino, perché oggi forse perché c'è molta elettricità statica, ti sento basso di radio. Aspetta, e oggi dammi il controllo, come sto arrivando di apparatore? Ho capito, sei furgone, vabbè dai, non c'è problema. C'è qualcuno che chiama l'Italia, chi è avanti? Buonasera. Ho bianco per me un attimino. E va bene. Adelante veicolo, qui la stazione Primera Alfa Lima Italia, guardato da Antonio, Isola di Sardegna, adelante. Ok, ti escucho, Santiago 9, cioè 9, 5, modulazione 5, al 100%. Ok, volevo sapere, Marco, da te, come sta arrivando con l'inere acceso, 1, 2, 3, e così staccato, 1, 2, 3. Diciamo, da un 9 più 15 pieno, tra 9,15 e 9,20 a 9,25. Quindi ricordati, 9,15 pieno, 9 più 25. Via. Ma per caso hai le connessioni del 48 Plus con il microfono up down? No. Cazzo, magari avessi avuto. Non ce l'ho quello. Neanche le mobili con 40 addirittura ce le ho le connessioni. Bisogna che fai esclusione. La questione dell'up down devi fare. Prima ti cerchi la ricezione, poi ti cerchi la portante e l'ultimo capo che ti rimane è l'audio. E dovrebbe essere più o meno, vabbè, io ho lo spilotto auto in quel bar che ho comprato, e c'è l'app down lo stesso, in più c'è anche un pulsantino centrale per il come si chiama? Per lo squelch, capito? Però sono riuscito a trovarlo piano piano col test. È un cavettino piccolino, ho fatto, cioè in pratica per cercarmi prima la portante, poi la ricezione, una volta che poi ho fatto quello lì mi sono fatto le commutazioni. Ho capito, andava. Sai come sta arrivando? Guarda un po', 1, 2, 3, adesso è attaccato, guarda un po', Luca. No, ma... Così sono attaccato, guarda Luca, 1, 2, 3, adesso è attaccato, 1, 2, 3. Sul più e arrivi sul 3. Ok, allora va bene, già sta vendendo questo bibuccio 31. Sì, allora, mi aspetta un attimino, vado a mangiare qualcosa, allora, sennò un po' è un casino. Sentiamo dopo. D'accordo, che a dopo. Ripia Marco. Ehi, stavo guardando. Quindi Midland Alan 48 Plus sarà il multi, no? Quello display azzurro. Anche io stavo guardando se c'era lo schema qua. Ce ne sono 10.000 tranne quello che serve. Che palle, va. Io stavo cercando lo schema di un baracchino che c'ho io qua, che mi hanno dato e non sentivo lo schema. È impossibile trovarlo. Capito? Quindi. E quindi a un certo punto adesso devo provare. Devo in attina. Devo andare alla fusola a vedere se c'è questo potenziometro. Prenderlo perché tu io non mi avverba. Puoi provare, se va tutto bene è a posto, se dovesse risultare come prima, pazienza, anche perché è molto vecchio come baracchino, si trova lo schema, quindi cioè non vale quali finali apri un casino, è totalmente diverso da quei baracchini che sto facendo adesso. Sono rientrato io comunque. Ehi, Robè, adesso ti rilancio. Antonio, una cosa sola, che baracchino è? Chiedo un'occhiata anch'io. Wagner, 5010. Cosa? Wagner, 5010. Wagner, quello della cavalcata delle Valchirie, boh, adesso guarda, l'hai sentito, vai Robè. No, non lo so, ogni tanto ce ne sono nuovi di baracchini, anche l'altro giorno ne ho sentito uno, mai sentito, poi ho detto, ma questo bagre è roba nuova o vecchia, Antonio? Vecchia 70-80. Boh, non so, magari Marcari è uguale a qualche altro baracchino famoso, le hanno messo il marchio così per distribuirlo con un altro nome. Ma il modello si può sapere, Antonino? Perché va che me ne sarà la marca, ma il modello lo vogliamo tentare. Ma adesso è un mai sentita, è mai sentito. Ma c'è scritto me. È impossibile trovare come si chiama, l'addirittura si può, c'è un tipo che l'ha modificato 120 canali. Aspetta che forse avete parlato di due, tu eri rimasto. Antonello ha detto veloce, ho detto il modello, Antonello, il modello. Sei un po' capito, il centro di risolvere non ti ha inteso, dimmi. Porca miseria, il modello, a parte la marca, serve il modello. Ha battuto due minuti da... come dire, è un Intec, grazie, è di utilizzo decimilia di apparati. Comunque sì, Manfredi e Sordi sono il top, poi io ci sono cresciuto, come immagino sì, anche tu. E mi è piaciuto anche quando faceva quelli, sai quei film episodi, tipo l'episodio Il Cavalluccio Svedese, oppure quell'altro, aspetta com'era l'altro, L'Uomo dal Basco Rosso, sempre c'entravano amiche, figlie degli amici, ormai adulte, roba del genere. Guarda, Nino Manfredi è stato grande quando ero piccolino nel film Pinocchio, era una cosa fuori dal mondo, un'interpretazione da paura. Marco, Marco. Vai. Modello 510. Adesso vedo, ma dubito, ma hai detto Pinocchio ha fatto anche addirittura. Hai ragione, faceva Geppetto, sì. Caspita quanto mi era piaciuta quella serie lì. Poi gli effetti speciali dell'epoca, non per fare il burattino, tutta animazione, sai, fatta con le marionette proprio. È perché il pesce e cane, la balena, non te lo ricordi? Il gatto e la volpe c'erano Franco Franci e Ciccio Garcia. Quello, il bambino Andrea, come si chiamava? Andrea, mi ricordo, che poi è diventato tossico, mi pare che sia morto di overdose pure quel ragazzino, ma era un film bellissimo, fatto con niente, nel senso, eravamo piccolini, mi ricordo, adesso sarebbe ridicolo fare una cosa del genere, nemmeno Telegile fa una cosa del genere, gli effetti speciali, però era, all'epoca era impressionante, poi era in bianco e nero poi, ma ti prendeva questa musica, la fattina, c'era Gennaro Lollobrigida, c'erano tutti attori di un certo livello, era, allora ce l'ho sempre in mente, mi è capitato di guardarla anche da poco su internet, ogni tanto qualche spezzone mi capita di vederlo, però era uno di quei film che proprio ti fa vedere di cosa vivevamo prima noi, quando eravamo bambini, nel senso ti guardavi una cosettina da niente ed eri super contento, non vedevi l'ora poi di vedere la fine di quel coso, era in tre episodi poi. Quello me lo sono dimenticato, mi ricordo che il gatto e la volpe erano due furtivecci, infatti come nell'anno ingannare con la storia degli Zecchini. Cesso, è passato tanto di quel tempo che ne ho un lontano ricordo, però da bambino ero estasiato. Poi mi piaceva anche roba che guardava mamma, tipo Michele Strogoff, roba più cruda, no? Che praticamente a uno, secondo la legge dei mongoli là, no? Ai tempi di Genghis Khan, mi pare fosse, manco lo so, praticamente avevano preso una pagina a caso e la punizione doveva essere la perdita della vista, e mi ricordo che gli avevano avvicinato un coltello arroventato agli occhi, senza toccarli però, e aveva perso la vista il tipo. Io poi ero estasiato da bambino a questi particolari anche un po' macabri, no? Era russo, Michele Strogoff gli aveva messo la sciabola vicino agli occhi per non ammazzarlo, per non farlo cieco completamente, in modo poi si è ripreso, gli avevano appoggiato il calore, sembrava gli avevano bruciato le palpebre degli occhi, perché l'aveva aiutato questa zarina, non so chi era, una di quelle russe, nobili russe, non lo so cosa era, era riuscito a fargli salvare la vita, poi nel tempo è andato in carcere, aveva tenuto le bende per un po' di tempo e poi alla fine si è ripreso e si è vendicato, era tipo un genere di Sandok, una cosa del genere, però ambientato in Russia. Lui era una persona molto importante, diciamo, un grande eroe dell'epoca russa, dei tempi dello zar, eccetera. Mi ha dato una foto, Marco. Cos'è la cosa? Marco gli ha dato una foto di quel baracchino. No. Cioè, baracchino, questo è praticamente baraccone, c'è una cosa enorme, enorme veramente, l'ho visto comunque, Antonio, l'ho trovato, sto cercando lo schema, se si trova, Eia, oh, Robè, poi mi ricordo il punto in cui ha ricominciato a vedere la vista tempo dopo, mi pare era un punto dove c'era questa donna che mi pare si era fatta il bagno in un lago, roba del genere, mi pare si stesse rivestendo e lui piano piano dal buio ha cominciato a rivedere una sagoma sfocata di lei e piano piano diventava più nitida, può essere? Sì, sì, è quello lì, ed era la tipa, quella che poi si è innamorati, diciamo, poi è finito bene, dai, col film. Poi all'epoca, vabbè, certe cose nonno non me le faceva vedere perché era antica, tipo radici, c'era l'epoca bello, c'era olocausto, ancora più delicata, però all'epoca erano ancora un po' edulcorate, se possiamo dirlo, perché se vuoi vedere il pianista o Schindler List, per carità di Dio, cioè all'epoca in TV non ne potevi nemmeno far vedere i film di oggi, era tutto più censurato, capito? Troppa violenza non la potevi far vedere. Certo, e perché non te lo ricordi, come si chiama, il Conte di Montecristo, è quello, come si chiamava, Conte di Montecristo, vabbè, ma c'era quell'altro che era una specie di pirata, come si chiamava, che lì era, l'avevano, che poi si sono innamorati, che lui era mezzo zoppo, era un pirata che c'aveva uno sfregio nella faccia, come si chiamava quello lì, quel film di coso, che l'hanno dato un po' di puntata. Angelica. Sì, Angelica, hai detto bene. La cosa Angelica, come si chiamava? Mia Eugenio, ritornato. Eia, sono qua. Eia. E beh, oggi un bel di gente è scaricato, Eugenio. Stamattina ne è sceso un po', sì. Ma che passeggeri? Soprattutto. Cacchio, io buono, non ho aggiunto tutta questa gente dove sta andando a finire. Buh, dice che non si può entrare senza autorizzazione e tanto è fare il numero di ieri. Nelle seconde case ci puoi andare. No, ho capito? Nelle seconde case ci puoi andare. E cacchio, tutti i seconde case sono questi e non lavora nessuno. E familiari, questi suoceri, questo suoceri. Vabbè, speriamo bene, dai. La Beata Angelica si chiamava lo sceneggiato, dai, quella specie di cosa. Bello, bello, c'era lui lo sfregiato e lui aveva un nome francese, François. E poi stavo parlando adesso, raccontando di vecchi programmi, quello del Conte di Montecristo, lo stesso che poi alla fine si è bello vendicato, Radici era un po' triste, dai, bovaraccio, ma già ne abbiamo visto di coso. Io non ho mai guardato tutte quelle serie che ci guardavano tutti, Dallas, Beautiful, quelle proprio nemmeno a vederle non mi sono mai piaciuti, che 2500 puntate c'erano, ma la gente diventava scema, le donne, e mie zie, gente grande, diciamo, tutti qua, no, che c'è Beautiful, c'è Beautiful, c'è Dallas, c'è quell'altro, anche lì chi piange, non mi ricordo questo cacchio, anche lì chi piange, la gente l'ha fissata, una cagata mondiale, però più di tutti Beautiful, Beautiful ha fatto un successo allucinante. Ciao Rogi, Robè, tu ti ricordi vagamente anche la baronessa di Carini, mi piaceva molto la sigla, poi la trama va bene, non l'ho seguita più di tanto. L'amaro caso della baronessa di Carini. Eia, ricordo solo che il cantastorie stava cantando questa storia e ha buscato, mi pare, da uomini del, non so, il feudo, cosa c'era all'epoca? Ma non feudo, no, scusa, perdonami. E già capito, comunque gente del potere. Ehi, no, ma voi siete troppo piccoli, non avete conosciuto Belfagor, cacchio. No, mamma me lo raccontava. Io ero piccolino, 6 anni c'avevo, era appena uscito Belfagor, ma mi ricordo lo spavento, la paura, mamma mia, era la cosa terrorizzante, poi era in bianco e nero e ti teneva in suspense perché non riuscivi, non si vedeva mai questa immagine, e poi era una donna vestita con una specie di maschera che usciva la notte nel Louvre, mamma mia, io mi ricordo lo spavento, le paure, e babbo, non vedi, non fa niente, è un film, e lui di nascosto, eravamo curiosi, allo stesso tempo terrorizzati, ti mettevi dietro la porta a vedere, mamma mia, che ricordi che c'ho, oppure Gamma, c'era lo stesso un coso di, ambientato in questo affare di computer, una cosa di, dove c'erano dei computer, che c'era la musica di Simonetti che faceva quel pianista, quel musicista, ma era un film lo stesso molto, ti prendeva parecchio, un film degli sceneggiati. Poi c'era roba sempre a tempi di mamma vecchia che io non ho mai visto, tipo E le stelle stanno a guardare, oppure La cittadella, roba, una roba in bianco nero, mi roba post guerra mondiale. Va bene. Invece io avevo dimenticato, poi facciamo girare, Antonè, forse ho trovato qualcosa, forse. Allora mi ero completamente dimenticato, anche perché io non l'ho vista, la serie TV in fine anni 70, Zaffiro e Acciaio. Io quella o l'ho rimossa o non l'ho mai vista. Zaffiro o Acciaio, mai sentito. Sì, era in stile I Magnifici Tre, ti ricordi? Sì, Zaffiro e Acciaio, che poi è un po' paranormale come serie. Vabbè, comunque, forse si trova sempre o su YouTube o sui canali alternativi, diciamo, tra virgolette. Dai, fate girare. Antonè, avrei trovato questo Wagner Grandstand Base Station, è uno di Roger K, dice che è di quell'apparato che tu mi hai detto, il 510. Se tu riesci a trovare dei riscontri nei componenti, prova a usare quello. Adesso te lo mando. Ok, da. Anche perché mi aiuta parecchio, c'è problemi di audio. E vuole i cavanetti, non è che posso andare a, cioè, a toccare i tasti, sto così senza sapere quello che sto facendo. Mi scatta per quello, beh. Invece con lo schema ce li vuoi prima, ma direttamente dove c'è la colonnina, la via, come si chiama direttamente la finale audio. So, quando lo cambio il condensatore, che in perdita, se c'è un condensatore in perdita, un coso, un dreamer, non lo so. Potenziamo questo misurie, così lo misuro e lo faccio prima. Naturalmente tu dei componenti, cioè riesci a capire se è quell'apparato, perché sto vedendo già, i due strumenti ci sono e tanti altri particolari corrispondono, dai, speriamo sia quello. E adesso guardo, va. Adesso è andata a guardare, me lo ricordo, se ero piccolino, quello dei minatori, e poi non ci dimentichiamo la freccia nera. La freccia nera, che era tipo Robin Hood, una cosa del genere, c'è anche una canzone, me la ricordo a memoria. Ok, vai Uge. Le banana split, lo ricordate? Che cosa? Le banana split. Banana split? Speriamo. Ma la bomba di spesa? No, era un programma, lo davano alle 8 del mattino. No, non me lo ricordo, ma tu lo beh, sei più grande di me. E lo sai il gioco, non lo so, quanti anni hai tu? Io sono del 71. E io sono molto più grande di te, quando siete piccolini. Ciao Tonino, ah ecco perché tu ricordi quello alle stelle stanno a guardare, quella è roba che io non ho mai visto perché ero troppo piccolo, oppure non ero neanche spermatozoo. Vai Tonino. Buonasera a tutti. Sei la freccia nera di chi scelto? Tutti li ricordo Beppa Lor, Fantasia del Louvre. Vabbè, io sono molto più grande di voi, sono del 54. La freccia nera fiscando si scaglia con la sporca canaglia, il saluto vi do. Il più piccolo sono io allora, vai. Dopo Riccardino. È vero, mi sa che tu sei il più piccolo della... No, più piccolo di te lo sai chi c'è, Claudio Ruginoso. Ah, quello di Muros, e quanti anni ha? Mi pare che c'ha 24 o 25 anni. E allora mi batte, là. Io sono del 73. 73? 73. E io sono del 63 invece, 10 anni più grande di te. E allora da oggi poi ti chiamo, ti dico Washe, signor Roberto. Del vostro mi devi dare, cazzo, ti metto la mano in testa e ti dico da oggi mi puoi dare del tu, cazzo, vai Tonino. Per carità, e ci ho messo con lo nonno, no, il più vecchio di tutti è Giovanni Bracco, c'ha 84 anni, e poi c'è Giulio Dollaro, mi pare ne ha 79. Vabbè, ma non ci sono frequenza, adesso che adesso sono solo io più vecchio. Ah, va, può darsi, dai. Tu ci sei già arrivato, noi ci dovremmo arrivare se Dio vuole, e c'hai qualche punto a favore a noi. Io non ci arriverò. Che cosa vai? Me lo sento, dai. Già l'ho schivata una volta, però... Oh, te lo senti, dai, perché anche Falcone lo dice, è pure ancora vivo. Sono fortunato se arriva domani. Ciao ragazzi, io vado a mangiare. Ciao, a dopo. Ciao Eugenio, il più forte CB di Porto Torre. Sei uno dei più forti della Sardegna. Grazie, lo vedi. Buon gustaio. Dai, ci vediamo domani in officina, ciao. Ciao Eugenio, dai, vai Tony. Ciao Eugenio, buon coletti, ci sentiamo. Avanti la cosa. Frigo, ne hai officina? Frigo? Ehi, per la roba fresca da bere? Ma è biudo, se ne la reghi sì. L'attacco domani mattina la trovi già fresca. E allora scendi in officina e mettimi qualche Coca-Cola, qualche aranciata. No, giù un prismo. Hai l'onore di conoscermi di persona. Ma adesso è vuoto il frigo, bisogna aspettare che lo riempiamo, dai. Se non neanche acqua di rubinetto ti posso dare, perché riservatoio, se no ti potrebbe offrire un bel bicchiere d'acqua fresca. Non l'abbiamo ancora messo, non l'abbiamo ancora acceso il frigo, ma già ci sarà il momento opportuno di farti assaggiare un po' di acqua di rubinetto fresca. Ok, là, vabbè, a domani, ciao! Ciao Eugenio, vai Marcolino. Ciao Eugenio, buona serata, buon tutto, dai. Quindi vabbè, non fa parlare Riccardo Renemati dell'epoca con te, perché caspita, tu sei dell'epoca persino pre-Goldrick, pre-Mazinga, che erano i primi, Judo Boy. Cacchio, io sono del 63, faccio 57 anni a settembre, sono un vecchietto, sto già iniziando a prendere il bastone per tenermi dritto piano piano domani. Ti piacerebbe? Io per la schiena fra un po' lo prendo io il bastone, se non la sedia a rotelle lasciamo perdere. Vai Tonino. Io sinceramente l'età che ho non le dimostro da una parte e dall'altra parte non me le sento, quindi ho ribagliato l'anagrafe, la materia è varia. E ci compensiamo, io praticamente mi sento gli anni che non ho invece, mi sento più vecchio di quanto non sia. Come mai? Cosa è successo? Ah boh, è così, così è. E la schiena è messa abbastanza male, dai. Poi tutto il resto chi lo sa, meglio non fare analisi. Non parliamo di schiena, per carità, perché io sono già visto, soffrendo di ernia nel disco. E quindi non mi posso operare, mi sembra che l'ho già accennato. No, perché non ti puoi operare? Perché sono cardiopatico. Ah, quindi non è consigliabile, cioè è un po' a rischio, dai. Ecco, quindi niente, c'è una soluzione che una benedizione dietro la schiena, che arrivano dentro la vertebra, praticamente mi rimpicciolisce il nervo del disco, la parete da dentro, però questa è dovuta soltanto facendo una risonanza magnetica, anche io l'ho fatta 5 anni fa, ma non vale più, vuole fatta fresca fresca. Ho preso l'appuntamento, ho telefonato lì al centro benessere di Platamona e devo telefonare a fine maggio, insomma è tornata fuori pastiglie, ma che dai. Il fattore è questo, che io se cammino 10-15 minuti, boh, mi devo fermare, mi devo forse sedere, per forza. Sto bene, c'è tutto, ho coricato. In piedi no. Tony. Vai Robè. Tony. Dimmi. Ma che lavoro facevi tu, o che lavoro fai? Elettrico, idrico. Allora ti dico già che in 22 anni sollevavo spesso i motori dell'antincendio, il pilota no, che è piccolino, quelli peso 120 kg, 140 in due, e portarli da giù, portarli sopra, poi portarli sulla macchina, scaricarli, portarli aggiustare, eccetera. Ho capito, hai detto elettrico, idrico, cioè pompe sommerse. No, noi lavoriamo in tutte le scuole superiori e facciamo le manutenzioni, impianto elettrico ed idrico, dalla A alla Z. Ah, stavo pensando a un altro tipo di lavoro, pensavo che facessi installazione di pompe sommerse. No, no. E quindi ce ne farò qualche po' la sommersa comunque a conto mio, comunque lo sport, la schiena, capito, durante tutti questi anni, ha contribuito a fare questi piccoli acciacchi. E grazie alla Fornero che vuole prendere in piccata, che ci fa andare in pensione quando non ce la facciamo più. Ma tu non sei ancora in pensione? Io ci vado l'altro anno. Eia, ok, già riusciremo. Tu ci arrivi, io speriamo che a noi ci siano almeno i soldi, perché cacchio non se ne capisce più niente di queste pensioni. Un anno, c'è gente, io conosco gente che è andata in pensione a 58 anni, altri, vabbè, su altri tipi di lavori sono andati anche prima, gente che sono rimasta a bocca aperta in pensione, ha detto, vabbè, ci avevo quello, poi ho avuto un infortunio e quello, e a 53 anni era già in pensione. Guarda, io per me potrei andare anche in pensione già adesso, se voglio, perché ho 35% di invalidità, quindi. Ma molti, allora, prima la pensione poteva dare con 35 anni i contributi, ora ne pretende la Fornero 42 anni, io ci andrò con 40 anni l'altro anno, ho perso 2 anni ma non me ne fotte nulla perché ho l'età, capito? E vado con l'età. Poi tra l'altro ho anche il 35% di invalidità e quindi la Fornero me la schiaffo dietro. Ma bisogna vedere se voi la pensione te la danno al 100%. Sì. A 67 anni te la danno al 100%. Con i contributi che ho, 40 anni, ho già parlato con l'Inps e quindi non vado a patronato. Perché non sarò un cacchio. Ehi, allora meglio così, allora, perché poi molte volte dice i primi 2 anni te li do all'80%, poi dopo 2 anni ti do la differenza. Ma quindi quando vado prima in pensione, ma io ci vado più a 67 anni, capito? Eia. Ok, vediamo un attimino, facciamo una chiamata su 10, se c'è qualcuno che vuole entrare nel frattempo. Avanti con la buonasera, se no riprendete la tuta a Marco, e c'è anche l'amico Antonello Pompugno nella parte alta di Sassari. Rientro io, scusatemi, devo andare in carica, e che hanno detto è pronto, poi non era neanche pronto a mangiare, e quindi sono ritornato. Io pensavo avrei già finito di mangiare, ci manca più di un'ora, Riccardo. Lo so, perché hanno detto è pronto, io a tavola, e poi non c'erano neanche pronte le polpette, erano ancora a cucinare. Ok, hai visto Tony a Riccardino ogni segnale? Taglia Fotoscala qua, ciao Riccardì. Occhio, mangia fredda le polpette, se no che il mao mao te le mangia lui. E a Tony, comunque sono a ruota, non so, ho sentito solo a Marco, a Settolino e a Roberto, qualcun altro. Io, ciao Riccardì, saluto lì, sono il 26 qua. A voglia di arrivi. Ciucchi ciù. E questa è l'antenna, di la verità, Roberto. Cos'è tu? L'antenna, ma Riccardino. Eia, la ci contavi a me. Se ti hai presente c'è il microfono normale, hai detto quando attaccare il microfono serio, le bevi più 5 o il tanno che deve arrivare. Riccardi però ti sei abbassato di un peluzzino, ma hai cambiato radio? No, il coso, lo so, come perché come l'altro cavo, forse mi stava, non lo so, però questo cavo è buono, prima eri 9.20, adesso sei 9.15. Non so, perché anche un po' il tempo che stavo mettendo l'antenna. No, non c'è niente quello. E magari il baracchino ha perso un pochettino, magari quando scalda i finali non è che siano proprio efficienti al 100%. Vabbè, comunque il segnale è sempre forte, radio Super 5, a bomba. Vediamo Marco se c'è ancora. Avanti Marco. E io, ciao Riccardo di nuovo. Allora, io adesso andrei a farmi il caffè. A parte che Pucci, io ho mangiato troppo, ma mi sono mangiato una confezione di insalata capricciosa, quella con la maionese, senza pane, ma disgustato, Pucci, e mi piglio anche un bicchiere di amaro, così digerisco tutto. Volevo chiedere a Antonello se ha trovato un riscontro con quello schema. Sì, spero di sì, perché ho controllato, c'è un micro integrato, sia micro PC, domani mattina lo guardo. In questo momento con la luce delle lampada viene male. Hai capito? Domani mattina mi metto in salone e controllo se quello è il micro PC c'è riscontro, prendo e me lo obbligo e lo cambio. C'è da cambiare quello lì per l'audio. E quello, l'altro parte va direttamente a questo integrato qua. Fa anche la verifica addirittura, quindi già corrisponde già. Eia, va bene, dovrebbe essere simile a Zodiac, roba dell'anno 3 lo stesso. Va bene, se risolvi dovresti anche conservartelo quello schema, stampartelo pure Antonè. Sarebbe meglio stamparlo in A5, però e chi ce l'ha la stampante A5? Magari. Al limite te lo fai fare da una copisteria e te lo conservi colore al padrone per usi futuri. Ok, detto ciò io rilancio Tonino, vorrò fare il caffè, rimango in cuore IKG. Vai Tonino. Ok, ciao Marcolis, buon brasiliano allora, dai, sapete bene, quando potrai ce l'ho qua. Avanti Roberto. Ehi, ti voglio dire Marco, tu sei dall'altra volta con questo A5, A5 non esiste, esiste A3 che è il doppio dell'A4 e poi c'è l'A1 che è quello di 1,70 m, A5 non è un formato mai sentito. Allora Robè, A5 quaderno sarebbe, quaderno, formato quaderno, A4 formato protocollo, e ho sbagliato io, A3 volevo dire, e A3 sarebbe il doppio protocollo, dai, come un quadernone aperto diciamo. L'A3 è esattamente il doppio dell'A4, A5 io non l'ho mai sentito, mi informerò, perché si parla sempre formato A4, è quello standard lettera, e poi l'A3 è il doppio, e poi c'è l'A1 50 quello grande, 50x70 per i cartelloni. Dai. Sì, praticamente A5, se non sto sbagliando io, A5 dovrebbe essere proprio metà protocollo, come un quaderno. Non lo so, non lo conosco, perché io quando faccio un ingrandimento di un foglio A4, per dire fammi ingrandissimi quello, dice come lo vuoi in A3 o in A4 te lo fa il doppio, te lo fa il doppio di larghezza e il doppio di lunghezza. Ma A4 è quello normale, fotocopia normale. Quello normale, è il foglio per scrivere da lettera, da stampante, il doppio di quello si chiama A3. Perché ce l'ho più la stampante qua, Però A5, chi ce l'ha i fogli da A5? Non li ho mai visti. Vabbè, Robè, vai su Wikipedia, metti formato carta. Sì, c'è A5. Guarda, A1, A... Aspetta, addirittura A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8. Cioè, alla fine si arriva quasi al formato francobollo. No, vabbè, ma sono formati fuori standard, perché lo standard normale del foglio lettera, diciamo, è tipo protocollo, dai, come hai detto tu, è l'A3. E poi c'è il doppio di quello, e chiamalo doppio protocollo volgarmente, è l'A3. E poi c'è l'A1, quello gigante, però A5 non l'ho mai sentito. No, io già l'ho sentito, perché ho una carta così di informati. Comunque, Robè, ti volevo chiedere un attimo al discorso. Però c'è sempre, parlami di questo barattino che è il migliore, questo barattino DAC, fatto marcare. DAC, proprio così si chiama, DAC. D-A-C. Ah, così si chiama. Cerca DAC e poi X2, dodicesimo ci dovrebbe essere, ed è una blista di baracchino enorme, bianco, non bianco, cioè gli strumenti bianchi, e lui è in alluminio, è una cosa gigante. Non dico no, perché lo stavo ascoltando sempre, e lo volevo chiedere che baracchino era. Dopo lo cerco e te lo mando via coso, via WhatsApp. Ok, adesso Marco si sta prendendo il caffè, a quest'ora non so, vabbè, so dove si prende, io sono 2 giorni che non dormo, io caffè non ne prendo mai, sono di quelli che non ne sente la necessità, come la Coca-Cola, se la prendo la notte non dormo, preferisco prenderla e berne il meno possibile, ma durante il giorno. Ok, vai Torino, avanti a te il mic. Ok, ma tu hai curiosità, avete preso l'antenna o c'è a Riccardino? Sì, oggi si è messo l'antenna, lui ha fatto tutto da solo col babbo, ha fatto un bel lavoro perché arriva molto molto, vabbè, io l'ascoltavo sempre minimo 9, e oggi arriva 9+20 con questo segnale qua. No, è una bella giornata, lo scelto, è un giovento più vecchio. Ma c'è vento, perché non l'ho notato, qua sono tutto, diciamo, interno a casa, non sento niente. No, c'è vento, stasera mi sono vento forte, ma era anche fastidio. Ora c'è anche stamattina il vento, eh. Ma ci vuole un pochettino di raffreddamento, dai, che così... C'era un paio di giorni, c'era troppo caldo, ci è arrivato di colpo il caldo, meglio che ricambi un po' di aria ogni tanto. Comunque ho cambiato il microfono, com'è? Meglio dell'altro giorno questa radio, Robè? No, ti ascolto bene, anche le altre volte ti ascoltavo bene. Che microfono è questo? Sempre normale, adesso mi sono preparato già il saltatore e voglio attaccare il sarebbe tavolo. Questo cosa metto? Che microfono? Normale, normale, di quelli proprio bastardini. E cazzo, siamo amplificati, sta andando bene, alla grande. No, no, è proprio uno di quelli terra e terra. Avevo un altro microfono, provato, e invece può essere questo qua, vedere come va. No, no, va bene, anche Riccardino, considerando che c'ha un baracchino che secondo me non arriva a 4 watt, perché sono di quelli vecchi, magari un po' tiratini, quando col tempo un po' perdono qualcosa di prestazione, però la radio è bella chiara, pulita, limpida. Aspetta un po' quando metterà il microfono amplificato. E tu Robè, come sto di attacco? Un attimo. No, lasciala così, non sollevare, tanto per avere un grandissimo miglioramento deve andare oltre i 10 metri, per cui si crea solo problemi, ci vuole un palo molto grosso, una struttura sotto di fissare, lascia così, cioè 6 metri di palo e vanno più che bene, se no devi mettere i tiranti e fare un tirantaggio non è uno scherzo, ci vuole esperienza, bisogna saperlo fare, devi usare cavi di un certo pregio, ci vuole la sella per legarli, il doppio tirante, ed è un lavoro che poi alla fine non ne vale la candela, e per cui se non arrivi a Filadelfia arrivi a Washington, per cui lascia stare dove mi sta dicendo Tony, scusa. Sicuro hai conosciuto Dacco? Ho conosciuto a Bracco. Dacco con la D, con la palossola. No, e chi è? Era un cimì che stava all'interno della riga, aveva un mulino e ci ha messo l'antenna sopra a 20 metri. Tant'è vero che ha fatto un fulmine e ha bruciato la sua casa. Ma dove stava la landriga? Yes. Ma faceva solo spavento, guarda, quel palo se lo vedevi. Vabbè, ma questo è esagerato. Ma poi l'andriga deve essere abbastanza pulito, diciamo, non hai ostacoli, dai, per arrivare a Sassari già ci arrivi pulito, cacchio. Vabbè, certo. Niente, comunque, anch'io ho 6 metri di palo e mi basta. Io sono in campagna, sono tutto libero, ho superato col tetto, quindi sono tranquillo. Tetto, vabbè, primo piano, secondo piano, cioè, però io, dovrebbe essere io, con 6 metri, soprattutto, vado bene. Sì, ma devi stare attento, soprattutto quando sei in campagna, che non hai case vicino, anche se c'è un'antenna di 3 metri e non c'è niente vicino, hai fumo, devi stare con gli occhi aperti, è un bel pericoloso. È come quando stai in mare con la canna da pesca, il primo canna da pesca che trovano, tu non ti becca il fulmine, mentre quando sei in città che c'è dei palazzi più alti, un po' scarica nel punto più alto, raramente che becca il punto meno alto, dai, succede mai. Per cui Riccardi, io ti auguro con tutto il cuore che non succeda mai niente, però quando sei in campagna bisogna avere sempre gli occhi aperti, stacca sempre le antenne, tieni i cavi più lontano possibile dagli apparati quando vai la notte, se c'è un temporale in previsione, stacca tutte le antenne e mettile lontano il più possibile dagli apparati, perché può fare la carica il fascio elettrico, lo può fare anche se è staccato il cavo, però mettilo per quello più lontano, orientato dall'altra parte, al contrario della dove attacchi il PL sull'apparato. Scusate se interrompo io, sì, giustamente quello che dicevi, Robè, e anche tra l'altro io lo faccio sempre staccare il PL, poi con un cacciavite faccio fare la massa, perché un po' di corrente elettrostatica la tiene sempre. Io adesso ne ho messo un'altra, l'ho sollevata la settimana scorsa, ieri ho attaccato il PL, un'antenna di 9 metri, è più bassa della mantova perché il palo è più basso, sono 3 metri di palo, e sono preoccupato, ho detto cacchio con queste due antenne adesso così alte, però intorno ho due palazzi, uno è più o meno alla testa mia, ma l'altro un po' più alto, e la preoccupazione mia gli ho detto speriamo che non faccia qualche scherzo il fulmine. Grazie a Dio negli ultimi anni non è successo, però quando ero ragazzino io ha scaricato vicino a dove abito io e ha fatto un bel danno, mi ha tranciato un cavo della media tensione, proprio tranciato di netto, me lo ricordo come fosse oggi. È pericoloso comunque. No. Ce la so, e poi non c'è altra cosa, guarda, io sempre l'ho staccato, il PL, messo a terra e buonanotte. Mi sembra ci dialogavo, non me l'ha fottuta, ma la guarda chi non ha. Però purtroppo io ho tante radio e tante cose, se entra qua mi fa un bel di danno, e ho cose che ci sono molto affezionato, finché faccio un baracchino non te ne affutti nulla, ma c'ho cose preziose e mi dispiace tanto se dovesse entrare, a parte se entra un fulmine mi disintegra già tutta la casa, tutto l'impianto elettrico, perché ti attraversa tutta la casa e ti scioglie tutto. Ma poi le carapace che dicevi sono le fibre di carbone che giustamente attira i fulmini, infatti c'è anche disegnato il fulmine sulla canna. Sì, qualunque cosa, anche un manico d'ombrellone, quando sei in mare, che il territorio è piatto, diciamo, non ci sono delle colline o delle montagne, ma sai quanta gente si è fulminata in mare, anche in barca, quando c'è il coso, quando sei dentro un coso, ne conosco più di una di gente che gli ha fatto danno, a uno il gommone l'ha incenerito, cazzo, gli è esploso il serbatoio, c'aveva nel messaggio, lui era di lì vicino, meno male non era troppo vicino, ma è esploso il serbatoio, gli ha scaricato nel coso, un altro nel mare vicino a lui in gommone, ma non gli ha scaricato addosso, se no l'avrebbe sciolto, a poche centinaia di metri c'aveva la catenina d'oro attaccata al collo, gli ha ustionato tutto il collo, talmente il calore che ha generato nel circondario, gli ha bruciato, ustionato il collo. Ma poi è successo una cosa del genere anche tempo fa, non so se ha deciso, apparava un turista con la catenina al collo d'oro. Non mi ricordo se era morto quel tipo, poi tra l'altro. No, allora se ti prende il fulmine sei morto. Forse una persona, si dice nella storia, è riuscito a sopportare il fulmine, ma non è detto che l'abbia preso in pieno, che era sotto un albero e ha scaricato di lì e l'ha preso negli Stati Uniti, ma tutti quelli che sono stati presi dal fulmine sono centinaia di migliaia di volte, centinaia di migliaia di ampere, sono delle tensioni, delle correnti da paura, per cui non esiste corpo umano che riesca a sopravvivere, perché una scarica c'è calore, non è solo la corrente, c'è calore, con quelle tensioni lì ti sciogli, ti incenerisce la cosa. Basta vedere, io ho visto un apparecchio dove è arrivato il fulmine vicino, cosa gli ha fatto, l'ha incenerito. Come hai visto gli altri, come hai tagliato diretto, sono milioni di volte, io guardo spesso i tornati, questi, temporali eccetera, su di Max, non so se l'hai mai notato, però vedere anche questi fulmini che sono milioni di volte, quindi molto molto pericoloso, addirittura anche un filo di erba può tirare il fulmine. E dico anche un'altra cosa, sta che dicono fulmine a ciel sereno. Allora, un'ipotesi, c'è un temporale bruttissimo a Oschiri, perché anche da 50 km potrebbe arrivare anche a senso del fulmine. Allora, tieni presente, i temporali più pericolosi sono quelli estivi, in cui le nubi sono molto più basse di quelli invernali, per cui la scarica arriva ancora più forte. Infatti sono, bisogna stare molto attenti, come hai detto tu, c'è il fulmine a ciel sereno, la carica elettrostatica, si scontrano le correnti calde e fredde, esplode questo campo negativo e positivo e si forma la scarica. Di lì sono milioni di volte quando sono molto bassi. Io mi ricordo tanti anni fa, ero ragazzino in un paese a Giava d'estate, io in vita mia non ho mai visto una cosa così pericolosa dentro casa, questi fulmini e tuoni, sentivo la casa, ho detto qua ne crolla il terremoto. Mai visto, io ne ho visto tanti temporali anche al mare, bellissimi, ma sentire così potenti e così forti dentro casa, io mai visto una cosa del genere, una cosa spaventosa, il fulmine, la potenza del fulmine. Ho visto un albero da noi giù a Ripunti, l'ha frantumato, un albero, un cipresso alto, sarà stato una quindicina di metri, l'ha spaccato in due, proprio frantumato in due, l'ha sciolto, bruciato, è morto l'albero, l'avevamo dovuto tagliare pure perché si è bruciato. Sì, viene corbato praticamente, l'ho visto anche una volta a Fortezza San Antonio, un tronco di albero grosso, l'ha tagliato in due, l'ha tagliato. Scusate, che forse ho sopravvolato anch'io, chi è che vuole entrare? Da Roberto, io volevo dire, mi stanno dicendo adesso che è pronto, tutto apparecchiato, quindi non sappate che torno subito, mangio due polpette e corro. E viva le polpette. Oh, anche io ho mangiato polpette, dai, siamo in due, non lo so se mi trattengo, Riccardi, dai, eventualmente già ci sarà qualcuno dopo, dai, fai con calma, non ti preoccupare, se no ci sentiamo domani. Buona carica e buon tutto, Riccardo, vai Tonino. Ciao Riccardo, buon carica batterie, ci sentiamo sotto anche in Corea. Ok, ciao a tutti, intanto sicuro che torno perché mi devo, sono pronto per campeggiare stasera, mi devo campeggiare qui in garage. Ok, Riccardo. Niente, vabbè, io mi sono costruito, fatto questo periodo qua, un mobiletto, giustamente le misure che cui mi occorreva qua. Ho preso di quel legno, è anche bello vederlo perché c'ho tanti tipo segatura incollata, pressata, di grosso da 2,5. Tanto è vero che la cipata l'ha detto, non faceva bene a comprarlo, no, perché queste misure non ho tenuto. Non ci ho speso anche molto, mi c'era sulle 80 euro, però l'ho fatto come voglio io. E ci sta il baracchino, ci sta, ho fatto gli sportelli, ho fatto tutto. Ci sta il coso per appoggiarmi mentre devo saldare un piede, devo scrivere una lettera, cioè. Ho fatto un biglietto alto, addirittura è 1,20 per 90, profondità 30. Sì, sì, bello, dai. No, io invece ho utilizzato un altro sistema, allora c'avevo, me l'hanno regalato, dai, no? Poi l'ho modificato io, era un tavolo, cioè presente tavoli di negozio, dai, di una cartoleria, mi ha tolto il ripiano, tutta una struttura in ferro scatolare, grande, stiamo parlando di circa 3 metri di lunghezza, se non di più, dai, intorno ai 3 metri, alto da terra 1 metro, e gli ho messo le ruote in modo lo posso spostare, e sopra ho preso da, come si chiama, da bricco, ma in un piano bianco, quelli che usano per le cucine, non so se l'hai mai visti, per fare i tavoli oppure un piano di lavoro in cucina, nobilitato, bianco con gli spigoli tondi, bellissimo. Sopra di quello gli ho messo 3 ripiani di legno color ciliegio, tutti uguali, sempre con il coso, e ogni ripiano è lungo, sarà 2,50 m, gli ho messo i piedi per tenerlo sollevato, ci sono i piedi da 30 o 35 cm, adesso mi ricordo, gli ho messo tutte le radio sotto, ci sono 4 ripiani di radio qua, ti è presente, tutti pieni, e ho fatto un bel lavoro. Poi quando devo lavorare dietro lo prendo tutto intero, lo ruoto, insomma ci sono una marea di apparati, cavi eccetera, ed è uscito uno spettacolo, infatti chi l'ha visto è rimasto a bocca aperta. Vabbè, come sto uscendo? Guarda un po', 1, 2, 3, 4, 5, 6, anche tu mi dammi il controllo. Una bomba, perfetto, segnale 9+60, radio Super 5 stereo. È forte, Antonè, come radio, sembra che è un po' prestata pure. Sto usando il VV131, quello che sta funzionando adesso. Ok, quindi non si è incendiato, non è a posto, meno male. Stasera c'è il VV2001, adesso domani cerco di metterlo a posto, domani sera. Marco mi ha dato il tuo schema elettrico di quel baracchino che mi ha dato, adesso domani mattina te lo... ho già controllato qual è l'integrato audio, quindi faccio domande a cambiare l'integrato audio e il condensatore e vediamo come si comporta. Ti faccio sapere qualcosa domani mattina, va? Che vado oggi vicino a prenderlo, speriamo che ci sia solo un fusato. Ok, mi piglia pure, vabbè. L'unica cosa c'è sotto sotto un leggerissimo residuo di alternata, Antonio. Ok, non c'è problema, va bene. Ma diciamo proprio per essere pignoli, però la radio è bella, chiara e pulita, niente da dire, perfetta. Ok, adesso facciamo un attimino di bianco, nel frattempo se vuole entrare qualcuno, se no riprendi tu, Tonino. Nulla, vai Tonino. Ok, non la cavescio l'entra. Va bene, va bene, Antonio, comunque, se non funziona ecco il gruppo di mammare, te l'ho detto al telefono, quindi. Cioè io sono una persona che mi fido degli amici, non guardo l'euro, sotto mi chiedi, sotto ti do, ma che tu mi dai già per tre volte è roba che funziona poco, ma fammi da fastidio. Tu con cosa stai uscendo? Pulito o normale? Io sono liscio come l'olio, ho solo la terra 5 ottavi, un cavo RG58 che addirittura in due pezzi, ho messo un maridotto 2PL, ho provato col senso, è perfetto. E cosa posso dire? Un baracchino che ha 5 watt, un microfono, ho cambiato questo microfono, non matto, pulitissimo. Allora, con i picchi arrivi quasi 9 più 20, una radio perfetta, pulita e chiara. Ok, quindi ci metto quelle adatto a questo Tane più 3, dove c'è molto meglio di radio. Penso di sì, Tane più 3 è un grande microfono, un grande apparato. Niente, tutto pronto. Niente, io l'ho preso una volta, ho tre saltatori, guarda. Uno con la pistola che ce l'ho smettuto sulla parte perché non lo posso vedere. Ho preso quello a filo continuo che è il migliore che c'è, appunto, e ne ho altro appunto stesso che mi sento meno lo stesso. Questo saltatore, avevo tempo fa, vabbè, un saltatore, ma ti sto parlando degli anni 78. Lavorato un GB, un amico, ma ce me l'aveva dato, io gli ho dato uno di quelli stufi a olio a tipo termosifone, perché io non ne facevo niente, lui aveva freddo, e la guida, dicevo ti regalo un saldatore, regalamelo. Lei quel saldatore mi ha fatto 25 anni, era giallo, me lo ricordo ancora, così bello, e se funzionava bene. Sì, ma prima facevano cose molto molto meglio di adesso, sicuramente sulle resistenze, sui cavi usavano rame buono, non come adesso, che mettono porcheria in mezzo. C'erano la Lidl, quei Levis e quelle piccole unità saldanti, regolabili di temperatura a 10 euro, ti davano anche lo stagno, proprio un pezzo di regalo. Poi l'hanno portato anche digitale, costava intorno ai 12-13 euro con la temperatura digitale. E diciamo, ne ho preso un paio, uno non l'ho ancora usato, ce l'ho qua a casa di scorta. E poi ne ho uno di quelli normali, come si chiama, singolo, senza regolazione. E poi in officina c'ho l'unità di saldatura, ma quella costa una cosa professionale, costa 1500 euro quella roba lì. E io ho preso la Lidl, ho preso quella che c'è filo continuo, saldatore taglio fino a fino, due bobine, e dirò che è un gioiello. Da lì ho comprato anche quel cartuccio che per tagliare la legna. Da lì cosa ho comprato poi? Non mi ricordo, io c'ho un sacco di attrezzature che ho comprato, poi da poco mi sono comprato una di quelle seghe circolari da banco per là, che ho fatto il sagoletto per legno, e infatti mi è servito a portare questi mobilisti a me. Guarda, un amore, quando sale sembra burro, perfetto. E qualche persona dice, ma come butti su, e non è vero, perché non mi serve, non posso andare io dall'amico mio a fare legnare, ma ho tagliato questo pezzo, no, cazzo, così non mi va bene, scusate, misure, ritrovo da lui, no, io me la compro, non voglio chiedere niente a nessuno. È giusto, sono d'accordo con no, la Lidl sono ottimi prodotti, ti dico, noi li facciamo per uso professionale, non le seghe, ho preso anche quelle seghe lì, qualcuna, quelle a coltello, ne abbiamo una per tagliare il ferro e il legno, ma tu vedi cosa taglia, chissà cosa, è spaventosa, ci sono lame di tutti i tipi. Ho preso tante molette elettriche, batterie, no vabbè non elettrica, la moletta l'abbiamo presa a batteria ricaricabile, due trapani che ce l'avremmo boh, più di 10 anni ricaricabili, uno piccolo e uno grosso. Poi ho preso attrezzi di coso per togliere speciali, cose, attrezzi speciali, la telecamera, quella endoscopica, quella per gli angolini che la usiamo in officina per le cose, ti posso dire, la usano uguale identica ai vigili del fuoco e la vendono quella lì a 250 euro, io l'ho pagata 60 euro quando era scontata, ma ho preso una marea di roba, ti posso dire, la roba, non mi ricordo il marchio della Lidl, però è made in Germany, sono prodotti veramente costruiti di qualità, le batterie di quelle cose non si sono mai rovinate, di quelle molette, di quei trapani, ce l'abbiamo più di 10 anni. E io stesso come abitatori, ma io sto sempre comprando, hai capito? Sempre se mio figlio dice, ma se ce l'hai già, ma siccome mi sono in questo momento, non me lo so dove l'ho messo, e io ho addirittura trapani, addirittura conservanti, molette, ballerine, segreto operativo, quelli scatolati, perché arrivo a casa e dico, è troppo quello che stavo cercando. Pistole e silicone non le parliamo, perché quando mi capitava che lavoro con tuo mio, allora per ora dalla casa a cercare, allora sacca, andavo da me con compra, via. E infatti mi trovo un casino di materiale, tanto è vero che mio figlio l'ha detto, ah so, ma non domani avrò sito tutto quanto e ti arrangi, ma detto, sì, cosa devo voluto dirvi, no? Che? No, dai, almeno se c'è la roba non vai a chiedere agli altri, ma devi essere preoccupato che si rompa e tutto, anche io. Addirittura molte cose ce le ho doppie perché me le porto qua a casa, dico a casa posso fare quasi tutte le operazioni, diciamo, quelle diciamo di hobbistica, perché dal trapano, la moletta, altre cose ce l'ho tutto, anche chiavi, sette di chiavi non abbiamo, cacciavi, c'ho tutto, saldatori, in modo, anche se l'officina ce l'ha a pochi metri, però se mi capita tipo ieri dovevo fare un lavoro, mi serviva, ho preso, trapano e c'ho tutto.